24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Sta sulla battuta, ma una battuta nei termini della simpatia, non c'era qualcosa di niente di particolarmente contro, era proprio legata alle mie impressioni. E aveva appena detto che sarebbe un'ottima ministra, una ministra in Congo. Non ce lo vedo un ministro del Congo in Italia. E così Roberto Calderoli, parlando a Radio Capital, ci ha regalato la domenica in cui tutti pensavano a che cosa? Le vacanze, chi al mare, chi alla montagna, chi magari alla politica, qualche pazzo pensava anche alla politica. Si pensava a tante altre cose, si era rilassati, chi stava in spiaggia, e invece voilà, eccolo lì, il paragone. No, ma dice, non l'ho proprio paragonato, non è che ho paragonato il ministro Chieng a un orango, ho detto che mi ricorda le fattezze dell'orango. Mamma mia, come siamo finiti in basso, cari italiani, come siamo finiti in basso. Questo è 24 mattino, buongiorno, saluto Alessandro Longoni in redazione, saluto Carmelo Lauricella in regia, e viva tutti, siamo pronti qui con 24 mattino, con chi è? Sì, non c'è la contraffina 3, Milan, sì. Sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pervago di lavori in radio, il mondo va così. Fino alla fine, proprio, fino alla fine, mi accompagnerà ancora 2 settimane. Va bene, questa è 24 mattino, come detto, possiamo subito aprire il Parlamento, sì, il nostro Parlamento, eccolo qua. Il caffè volentieri a tutti quanti. C'è Nicole Minetti, come sempre, c'è chi si arrabbia per Nicole Minetti, forse chi lo sa. Io non lo voglio il caffè della Minetti, tu continui, questo. Che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Eccoci, tutto fatto, quindi tra Calderoli e questi ascoltatori il clima è questo. Voglio salutare, la prima volta che chiamiamo il nostro spazio qui alle 6.30, l'onorevole Alessandra Moretti, buongiorno, del Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben svegliata, come vede qua il clima è questo. Bene, molto bene, clima positivo, sì, sento. Molto, molto positivo. Le presento subito Mario Adinolfi, che forse conoscerà certamente. Marione, buongiorno. Buongiorno. Alessandra Moretti. Eccoci, buongiorno qua. A te, ciao. Allora, subito bisogna parlare dell'Italia, dei problemi dell'Italia, quelli fondamentali, onorevole Moretti. Calderoli, allora, lei che ne pensa? Devo farle questa. Che ne pensa di questa cosa? Beh, insomma, è stata una battuta molto pesante, e quindi io credo davvero che, insomma, Calderoli abbia superato il segno. Penso che davvero sia una battuta che così qualifica un razzismo davvero insulso che ancora purtroppo alberga nella testa non solo di Calderoli ma anche di molte persone, purtroppo, insomma. Io sì, credo che comunque sia indegno di restare lì, e vicepresidente del Senato. Farebbe bene a dare le dimissioni, insomma, perché una battuta del genere è proprio una battuta di basso livello e non è degno di rappresentare le istituzioni italiane. Ricordiamo che Calderoli è vicepresidente del Senato. Oh, però c'è questa cosa, c'è un paio di interviste su Corriere Repubblica, voi sicuramente non l'avete ancora lette, ma Calderoli parla al Corriere e dice: ma io, senti un po' di Nolfi, ma io ho questo vezzo quando incontro una persona di fare paragoni con gli animali. Per esempio, Letta mi ricorda un airone con le gambe lunghe e la zampetta nella palude. Alfano una rana, la cancelliere un San Bernardo, pronto, così pacioso ma anche a mordere. Ma di Nolfeo, e quindi la Chieng, l'orango. Ma io, ovviamente un tentativo di mettere una pezza, ma cosa, sì, non può avere soluzione se non pensare che in Italia ci possa essere il vicepresidente del Senato che usa questa espressione nei confronti di un ministro della Repubblica. Allora io ogni volta provo a fare immaginifici paragoni con altre nazioni al mondo. Cioè, ma dove mai tu che sei reduce dall'America, avessero detto, che ne so, ma Obama, ricordi? Ma non può proprio, ma figuriamoci, per infinitamente più lievi vieni crocifisso. Anche da un'opinione pubblica che invece qui è quasi divisa, per certi vertici, cioè, diceva bene la Moretti, un pezzo d'opinione pubblica la pensa come Calderoli, non avrebbe difficoltà a parlare come Calderoli. Questo è il vero problema, che noi poi alla fine ci concentriamo sui politici, ma poi c'è un problema degli italiani, che è il vero nodo. No, ma la questione che andrebbe detta, non so se onorevole Moretti la pensa anche lei così, che per alcuni quello che dà fastidio della ministra Kyenge, diciamolo francamente, dà fastidio il fatto che abbia la pelle nera nel 2013, questo è, poi dicono no, ma è per la politica che ha, per le cose che dice, questo dà fastidio, che un ministro della Repubblica Italiana abbia la pelle nera. Lei, secondo lei è così, Moretti, oppure criticano quello che sono le politiche della ministra Kyenge? No, io credo che, come dite voi, sia proprio una questione culturale, nel senso che purtroppo insomma è ancora diffusa questo pregiudizio, ecco. È una forma di razzismo, come dire, latente, che però si esprime attraverso appunto le parole di Calderoli, che insomma da ruolo che ricopre, dalla carica che riveste, dovrebbe quantomeno insomma no essere limitarsi. Penso però che dobbiamo andare avanti. Credo anche, guardi, che Letta abbia fatto un atto invece di coraggio a indicare la Kyenge come ministra dell'integrazione, delle politiche di integrazione. È un bellissimo segno. Io ricordo per esempio Jean-Léonard Touadi, che fu a Roma il primo assessore alle politiche giovanili di colore, mi pare del sindaco Beltroni. Insomma, sì, sono indicazioni simboliche che però hanno un grande valore culturale nel nostro paese. Sì, Adinolfi, ti faccio sentire Bersani. Bersani su Calderoli, Ho detto che quanto alle parole di Calderoli, io non conosco animale che potendo parlare direbbe delle bestialità uguali. Ti piace di noi, ha tirato fuori il Bersani. Ma io purtroppo non credo a quello che ha detto Bersani, cioè non è vero che Calderoli è un unicum, Calderoli è purtroppo drammaticamente interprete di un segmento d'Italia. Quando noi andiamo allo stadio, e possiamo andare allo stadio in tutta Europa o se volete in tutto il mondo, solo nelle curve italiane abbiamo i cori di decine di migliaia di persone, e quando una persona di colore prende il pallone fanno quel verso corretto. Solo negli stadi italiani, cioè noi abbiamo un problema, questa è un'occasione, perché altrimenti è un elemento di distrazione di massa rispetto allo scandalo molto più grande che quello delle Kazake. Altrimenti, se non cogliamo questa occasione per dire, non è che Calderoli è cattivo, Calderoli è drammaticamente interprete di un pezzo d'Italia che peraltro dà anche consenso. Non dimentichiamo quando Maroni disse sì, noi ci abbiamo marciato sul razzismo perché quella cosa ci dava consenso. Sì, è vero, cioè, questa è una cosa assolutamente folle, che riguarda antropologicamente l'italiano, ed è una cosa tra l'altro molto grave, che non siamo tradizionalmente un paese inospitale o un paese razzista, ma lo stiamo diventando. E questo è estremamente peggiorati. Pericoloso. No, ma devo dire che non solo siamo peggiorati, siamo peggiorati, esattamente peggiorati. Ma eravamo così. Allora, questa mutazione antropologica dell'italiano è una cosa estremamente preoccupante. Calderoli non viene dalla Luna, viene purtroppo da un pezzo d'Italia che la pensa così, ed è un pezzo significativo di questo tra paese. L'altro, ragioniamo su questo. Il secolo XIX, per chiudere questa vicenda, il secolo XIX ha parlato, ha messo in prima pagina la foto di Calderoli dicendo: e a voi che animale fa ispirare Calderoli? Ha visto che questo è il suo gioco. Lei, Moretti, che animale ispira Calderoli? Non guardi, ma questo... Lui dice: mi danno sempre del maiale per il porcellum, no? E quindi quello è gioco facile, dire il maiale. Ecco, diciamo che come ministro Calderoli ha fatto i suoi danni, infatti il porcellum è uno dei danni che ha prodotto e che purtroppo di cui subiamo ancora le conseguenze negative. Però insomma davvero credo che sia una pagina spiacevole della storia anche di questa della Repubblica, credo che non fosse mai successo, insomma, che un ex ministro e un vicepresidente della Camera si esprimesse in maniera così volgare. Sì, lo rango è proprio, ma poi va a scavare proprio nei retaggi proprio storici, Nero la scimmia, ma proprio una roba, ma Calderoli, ma io non lo so, gli è venuto i 2 minuti o i 30 secondi di pazzia. Adinolfi alle 8 parlerà, ma tu l'hai già citata questa storia dei kazaki, ma sai che io posso dirlo, è colpa mia, non riesco ad appassionarmi a questa vicenda. Non so, io sono qui da 2 settimane, non pensa, sta studiando la mappa del Kazakistan, la storia del Kazakistan, è una vicenda davvero incredibile, incredibile anche per il racconto che se ne fa in Italia. No, ma certo, abbiamo fatto una rendition. Andate a leggere il Financial Times, andate a leggere un po' le stampe internazionali per capire che figura stiamo facendo a livello internazionale. È una roba grave, abbiamo fatto una rendition, come si direbbe in gergo. Abbiamo fatto una rendition, neanche quello abbiamo fatto. Abbiamo affittato 50 agenti di squadra mobile per compiere un crimine internazionale. Questa è una cosa che non è neanche una rendition, è molto per prendere una donna del Kazakistan, la moglie del una bambina e rispedirla in Kazakistan, perché era la moglie del principale oppositore, di un dittatore sanguinario estremamente pericoloso per gli equilibri europei. Ho capito. Non so veramente cos'altro dobbiamo fare. No, ma certo, tra l'altro dicendo una serie di bugie a raffica, Alfano che dice non ne sapevo niente, poi si scopre che era stato coperto di telefonate dall'ambasciata kazaka, che il suo capo di gabinetto l'ha incontrato il giorno prima che partisse l'operazione. Ma il punto è questo, Alfano sapeva, cioè oggi Repubblica chiede subito le dimissioni, dice anche che la scorsa settimana questo presidente kazako, Nazarbayev, era in Sardegna ospite di una villa di un amico di Berlusconi, ecco, così hanno tirato subito dentro Berlusconi. Ma io tiro dentro anche la Bonino, un'altra tarantella meravigliosa. La Bonino ci racconta che arriva un fax dalla Farnesina che accerta che la signora non ha un status diplomatico e lei non ne sapeva niente. Poi però il 31 è lei stessa andare a cercare Angelino Alfano per parlare di questa cosa, però prima di sentire qualche parola pubblica su questa storia abbiamo aspettato 40 giorni, cioè il 10 luglio quando Letta ha aperto l'indagine. Emma Bonino, una paladina dei diritti umani, non sapeva che bisognava accendere la luce su questa storia per far sì che si sviluppasse quello che si sta sviluppando in queste ore, ahimè, troppo tardi. Infatti, ma io non so. E anche Emma Bonino, non giochiamo al solito gioco a Berlusconi. No, ma come no? La buona Emma Bonino alle sue responsabilità. Oggi, infatti, Ezio Mauro in Prima di Repubblica scrive: a Bonino fosse stata ancora militante radicale, sarebbe già davanti all'ambasciata kazaka in un sit-in di protesta. Non lo so se, onorevole Moretti, lei ha una opinione compiuta su questa vicenda, ma rischia di terremotare il governo, una parte del governo. Alfano dovrebbe dimettersi. Oggi Repubblica chiede questo. Lei che idea si è fatta? Ma credo che il caso sia obiettivamente molto grave. Penso che Letta abbia faccia bene quando dice appunto che chi ha sbagliato pagherà, deve essere fatta a piena luce, piena insomma chiarezza su questa vicenda, anche dal punto di vista proprio delle sanzioni, perché appunto chi ha sbagliato in questa vicenda ne risponderà, perché restituire, voglio dire, una mamma e la sua bambina ad un dittatore asiatico, io credo davvero che in questo caso sia una questione gravissima sulla quale insomma il Parlamento chiederà la massima attenzione. Poi sulle responsabilità ovviamente chiederemo e arriveranno insomma le informazioni utili e necessarie per fare appunto per far sì che chi ha sbagliato se ne assuma, ecco, la responsabilità piena. Ma le pare normale, le pare plausibile, che ne so, che Alfano potesse non sapere quello che i vertici del Viminale dal punto di vista dei funzionari stavano facendo? Ma guardi, io avendo fatto nel mio piccolo insomma l'amministratore locale, può capitare che chi è al vertice, appunto il ministro, non conosca nel dettaglio, però questa è una vicenda talmente sotto, come dire, la lente di ingrandimento, perché si parlava di questa donna, se ne conosceva appunto la storia, insomma vediamo. Comunque vediamo. Il Parlamento ha chiesto che Alfano riferisca in aula, e quindi io penso che insomma lo farà, e mi auguro che porterà tutte le motivazioni. Non muovi 50 persone della squadra mobile, non muovi 50 persone di squadra mobile senza copertura politica. Questo sì, effettivamente 50 persone. L'operazione era mastodontica, locale, se ne muovevano 5 lo avessi ovviamente saputo. 50 persone di squadra mobile, ragazzi, sai cosa dire? 50 no, ma è chiaro, sembra un po'. Ma chi si sarebbe mai assunto la responsabilità del genere? Sembra ma vero, possiamo fare i nomi e i cognomi. Il prefetto Procaccini, che è il capo di gabinetto del ministro Alfano, che il 28 maggio, perché sennò altrimenti diventa tutto un gioco, che il 28 maggio incontra questi funzionari kazaki, e dopo le telefonate dei kazaki ad Alfano direttamente, attenzione, ad Alfano direttamente. Allora, si deve dimettere oggi, secondo voi? Beh, oggi è il primo nome che Repubblica fa come uno dei primi funzionari che rischia di saltare. Ecco. Il capo segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che si chiama prefetto Alessandro Valeri, che poi ha organizzato... Che è il secondo da Repubblica. Repubblica. Hai letto Repubblica. No, è il secondo il capo del cerimoniale, del segretario di delegazione del cerimoniale di Bonino, che si chiama Daniele Sfregola, questo non lo trovi su Repubblica. No, questo infatti non lo trovo. Questo non lo trovo. La vicenda della Farnesina. La Farnesina pare essere buona in queste vicende. Al capo il segretario di delegazione del cerimoniale della Bonino ha scritto un bel fax, l'ha firmato, dice no, la signora non c'ha nessuno status diplomatico, senza chiedere ma che vi serve, qual è il problema, no, così ha mandato un fax il 29 maggio. Due giorni prima che la signora venga espulsa, questo qui si deve rimettere. Oggi a Dino si è svegliato così. Deve pagare, è lo solito gioco italiano. Oggi su Radio Yes lo scopriremo alle 8. Intanto facciamo così: andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Onorevole Moretti, poi noi rientriamo. C'è la segreteria telefonica. I nostri ascoltatori, guardi che ne dicono di tutti i colori. Stia pronta. Ma perché Napolitano sta permettendo che tutto ruoti attorno a Berlusconi? Siamo in mano alla massoneria un'altra volta. Ma come fa il PD a cadere ancora nella trappola di quell'uomo che fa finta di calmare i suoi? Cosa teme? Di perdere qualche cosa? Manda a quel paese e noi, altro che i sostenitori di Berlusconi, noi scenderemo nella piazza per far festa? Come quando gli italiani nell'82 e nel 2006 scesero in piazza per la vittoria campione del mondo. Ciao Mila, sono Giancarlo da Genova. Spiegami una cosa, ma in tutti questi anni di spreco di denaro pubblico, la Corte dei Conti, ma che cazzo contava? Cominciamo a recuperare tutti i soldi che si sono rubati questi anni politici e mettiamo un tetto massimo agli stipendi, vedrà che in 3-4 anni ci salviamo, e altro che Svizzera. Oh Milan, brutto del bosciato, sono le 6:30, ancora non sei arrivato, apri sto smoothie bar, che tra poco arrivo al lavoro, neanche lo bevo sto caffè. Milan, sto sentendo qua la storia dei saggi, dicono che pensano, ma qui in Italia il problema non è che non si sa cosa c'è da fare, che sono sempre quelle, sono, non so, 30 anni che sulle riforme si dicono sempre quelle. Il problema non è il pensiero, il problema è chi le fa. Manca la manodopera, chi le cose le fa, le riforme, tutte queste belle cose. Non le fanno perché se toccano qualcosa, toccano gli interessi loro, e quindi c'è solo una cosa da fare. O i cittadini dal basso si muovono e si iscrivono un partito, lo creano, fanno qualcosa di massa volto a cambiare le cose, oppure i forconi. Quindi decidete popolo, chi vuol cambiare qualcosa o fa qualcosa di concreto, se no rimarremo sempre così, forconi o partito, scegliete. Forconi o partito, chi lo sa. Vabbè, questa è la segreteria telefonica, siamo con Maria Dinolfi, siamo con l'onorevole, chi è che ride? Onorevole Moretti, sorride, no? Allora, il PD... Ma che ci fate con Berlusconi? Guardi che glielo chiedono molti. Ma cosa ci fate con Berlusconi? Beh, insomma, questo non era certamente il governo che avremmo voluto. Insomma, non era il governo e non è il governo per il quale abbiamo fatto campagna elettorale. Che, insomma, è stato lo stesso Letta a dire, insomma, che non è il governo, insomma, che avevamo sognato, che il PD aveva sognato. Sì, ma anche adesso, cioè, qualsiasi cosa succeda, aiutate, adesso avete perso altre persone che dicono ma perché anche il blocco del Parlamento, ma com'è possibile? Ma no, ma questa però è un po' io credo che sia un equivoco un po' montato, insomma, così, perché in realtà, guardi, fa parte del gioco istituzionale. Io è la prima volta che sono in Parlamento e quindi inizialmente avevo le mie forti perplessità su questo. Il PDL chiede 3 giorni di sospensione e il PD correttamente dice un no secco ad una proposta irricevibile. Il PDL ovviamente ha bisogno di discutere perché sta vivendo oggettivamente un momento molto delicato, del resto l'unico leader che ha e l'unica figura a cui tutti sono aggrappati è Silvio Berlusconi, per cui crolla Berlusconi, crolla PDL. Avevano chiesto un momento di discussione, gli abbiamo concesso 3 ore per discutere. Del resto, guardi, poco tempo fa c'era stata la direzione nazionale, il PD aveva chiesto una sospensione. Quindi si è montata un po' la vicenda. Senta, ma invece questo Renzi che va dalla Merkel e scoppia un putiferio, a lei dà fastidio che sia andato in gran segreto dalla Merkel? Ma no, guardi, io penso che... Insomma, molto meglio la Merkel che Berlusconi, insomma. Ma qua sì, certo, perché è andato anche in segreto da Berlusconi, questa è vero, Adinolfi, sì. Effettivamente, insomma. Oh, sto Renzi ogni tanto va in segreto a trovare qualcuno, poi succede un casino. No. Mi aspetto però una Moretti renziana da qui a poco. Sì, sì. No, voglio questa soddisfazione, vedere la Moretti sostenere Renzi. Ma la Moretti già ci fu quel momento con Bersani che si diceva quando ci sarà la stretta decisiva che poi insomma, sarà la corsa vera. Però lo dica Moretti, secondo lei Renzi è il futuro del PD, lo dica, dai, si sbilanci, può essere il futuro del PD? Ma io credo che da un punto di vista, insomma, tra le persone più papabili, ma anche che hanno e riscuotono un largo consenso, devo dire, anche all'interno, insomma, della base del PD, non del partito, perché chi io direttamente vede delle resistenze e forti. Chi lo sa se lo fa, sta facendo la diplomatica, ma vota Renzi, lo voterebbe Renzi? Ma insomma, voi sapete quanto io abbia osteggiato la candidatura durante le primarie, ma sono stata la sua principale avversaria. E come no, lo ricordiamo. Per cui è stata anche una stagione, se permettetemi di dirlo, forse la stagione più bella che il PD ha vissuto, insomma, quella delle primarie, un confronto autentico, aperto, molto diretto. Quindi adesso io osservo con grande attenzione quelle che saranno le proposte programmatiche. In questo momento osservo, faccio politica in Parlamento, lo faccio in maniera attiva. E nel momento in cui vedrò quali saranno i candidati farò la mia scelta, sicuramente. Adinolfi, tu pensavi alle 6:59 del mattino del 15 luglio di strappare passo avanti. Ricordo che le primarie scorse eravamo 12 parlamentari su 350 stare con Matteo. Penso saranno un po' di più, allora io devo chiudere con questo: sappiate che al Ministero dei Beni Culturali, la denuncia della Borletti Buitoni, alla quale, scrive il Corriere, si sono rizzati i capelli quando la scoperta, non voglio immaginare adesso come sia, come foto, ci sono degli usceri, ha detto, che sono deputati solo a dire buongiorno e buonasera, buongiorno quando uno arriva e buonasera quando se ne va. Ma questo è il motivo per cui l'Italia fallirà, cioè, capita di Rolfi, sono lì, buongiorno quello, e buonasera, buongiorno e buonasera, ha detto io volevo spostarli, no, ragioni sindacali. Non so. E che fanno? Ah, qualcuno si era inventato e fa il cucito, le donne, altri il solitario, il Klondike, mamma mia, bravo. Questa è l'Italia. E poi ha raccontato anche che per 1 milione di euro da raccogliere per investimento per installare un monumento ci vogliono 3 anni d'attesa, certo, di burocrazia, certo. Ha detto, degli impiegati. Chiesto di spostarli al Museo di Palazzo Venezia, mancano custodi, no? Devono stare lì. Qual è il loro lavoro? Buongiorno, quando arriva il mattino, buonasera. Buongiorno, buonasera. Anche buon pranzo, magari se ti incrociano a pranzo. Buon pranzo, buonasera. Vabbè, questo è il motivo. Oggi il Corriere della Sera ne parla. Ne parleremo tra poco in rassegna stampa. Vi devo salutare. Grazie, onorevole Moretti. Grazie a voi. Per essere stata con noi. L'abbiamo insomma fatto iniziare la settimana ben presto. Allora, Adinolfi, che dire? Che animale ti ricorda Calderoli? Tu lo vuoi dire? Calderoli? L'airone, sì. L'airone è Letta, scusa. È Letta. Con la gambuccia. Con la gambuccia. Una cicogna, un fedicottero, credo. Un uccello, insomma, perché l'uccello poi ricorda qualcosa, no? Calderoli ti ricorda un uccello, un paduno. Si può usare la metafora. Diciamo. Vabbè. Grazie, alle 8 su Radio Yes. Ci ritroviamo dopo il giornale radio. Oh, Milan, brutto del bosciato.

Ma perché io sono una costituzionalista, ho sempre predicato e insegnato agli studenti i valori della democrazia costituzionale e il costituzionalismo è basato sulla divisione dei poteri, il rispetto reciproco fra i poteri dello Stato e non ammetto, non posso ammettere e che mi pare molto grave, in questo periodo ho riscontrato la carenza proprio di sensibilità costituzionale del nostro paese, purtroppo è diffusa, non sembra grave perché l'idea che un organo dello Stato, il Parlamento, sospenda dei lavori, l'idea era in fondo per protesta contro il fatto che la Cassazione, cioè che fa parte della magistratura, un altro potere che deve essere assolutamente indipendente, deve giudicare sereno, fuori dalle influenze politiche, che sospenda i lavori perché la Cassazione ha fissato una data, sì. Ha fissato una data, non ha fatto una parte, certo. Che anche le sente, una data che non consente a un imputato eccellente di godere della prescrizione, questo io devo dire in qualunque altro paese avrebbe scatenato una rivolta. Però mi scusi. Lei pensi negli Stati Uniti, sì. Se il Congresso degli Stati Uniti o il Presidente si permettesse di fare qualcosa contro i giudici che beh, insomma, non ho parole. Però lei, che... professoressa, mi scusi, ha detto, ho notato di recente che la Cassazione, che la Costituzione subisce diversi attacchi, ma se ne è accorta solo adesso? Oppure, no, cioè... non me ne sono accorta solo adesso, ma grave così non l'avevo riscontrato ancora. Ah, grave così. No, è curioso che, scusi, quello sì. Che mi dispiace è lei stesso non percepisce. Ma noi ne abbiamo parlato anche della gravità cosa. Ma dico, è gravissimo, credetemi, è una cosa gravissima. Io guardi, nella commissione ero riluttante a entrare, ma poi ci stavo bene, lavoravamo bene, avevo l'impressione, tanto no, la commissione non decide nulla, al contrario di quello che sta passando in giro. Come non decide? Non decide, fa delle proposte. La commissione studia, ha un compito di studio, di preparare del materiale e delle opinioni che poi andranno versate al Parlamento, al comitato dei 40 del Parlamento. Sì, però capisce, professoressa, che è proprio questo, cioè molti cittadini hanno proprio questa percezione a dire, ma a che cosa serve questa commissione di saggi? Lei ci dice a studiare, a proporre. No, a presentare, anche per, vede, ci sono, le persone pensano che le cose siano tutte semplici, che in 3 minuti si risolve tutto, quelli sono gli slogan, la verità è che i problemi sono complessi, in una Costituzione se lei tocca una cosa bisogna raccordarla con tutte le altre che stanno vicine, le scelte sono molto delicate, se in un sistema di equilibri, sai, in una Costituzione autoritaria tutto è semplice perché comanda uno e non c'è problema, no? E qui è un problema delicato di pesi e contrappesi, questo è proprio il costituzionalismo liberale, se non piace, purtroppo in Italia non piace perché i limiti al potere e le regole al potere nessuno le vuole, ma nessuno, voglio dire, ecco, è proprio, è terribile. Però, professore, noi abbiamo una tradizione molto brutta, una tradizione sempre stata autoritaria, sì. Buonasera, insomma. Però, professoressa Callassare, perché lei ha detto ero riluttante a entrare in questa commissione? Che ero dubbi? Riluttante perché intanto il procedimento, per varie ragioni, se vuole gliele dico tutte, intanto perché non rispetto il presidente Letta, rispetto le persone che compongono il governo, ma la maggioranza che lo sostiene è totalmente innaturale, questo credo che chiunque, questo certo, non occorre essere costituzionale. È il prodotto di un'elezione un po' raffazzonata, diciamo, un risultato elettorale. Un po'. Allora, è come a me da piccola mi insegnavano che non si può avere una cosa e il suo contrario. Allora, io penso, è una mia, questa è un'opinione, non c'è niente di sicuro, certo. Che una cosa in cui un governo in cui uno ha delle idee e l'altro ha le idee opposte può portare a 2 soluzioni, o l'immobilismo o veramente una crisi, mi pare, sì. Questa era una delle ragioni, seconda perché come hanno sottolineato molti miei colleghi, ci sono dei bellissimi articoli del professore Alessandro Pace dell'Università della Sapienza di Roma che anche ieri l'ha pubblicato, non mi ricordo su quale quotidiano, forse sul Fatto, sì. Ma su altre cose, sulla assoluta irregolarità di questa procedura, perché una deroga, la nostra Costituzione si può cambiare con delle regole che sono fissate nell'articolo 138, che è la base prima di tutto il sistema. Non si può cambiare la Costituzione senza quella procedura. Allora adesso si è immaginato di fare una legge costituzionale di deroga. Sì. Ma non è derogabile questo, è partita male. Allora lì ero riluttante, poi ho pensato che insomma un piccolo contributo magari modesto avrei potuto darlo, però insomma, questa cosa di settimana scorsa la proprio, questa la trovo grave. Vorrei tanto, mi piacerebbe tanto che le persone percepissero la gravità. Le dico la verità, io insomma proprio mi piacerebbe tanto che l'Italia diventasse una democrazia costituzionale cosciente, è che purtroppo anche i cittadini non sono mai stati abituati a conoscere questi valori. Ecco, voi giornalisti dovreste... Abbiamo questo compito. Senta, ma perché lei dice questa commissione tanto si sa non deciderà nulla? Le proposte intanto sono importanti, ma cioè c'era veramente bisogno? Non si poteva già fare tutto in Parlamento? C'era veramente bisogno di fare una commissione estranea fatta di 35 persone più 7 relatori? Sono d'accordo con lei che non c'era bisogno. Allora qui entro nell'altra faccenda che mi faceva essere riluttante, e c'è cioè l'idea che... Cioè il Parlamento poteva fare il lavoro che state facendo non voi? C'è dubbio, non c'è perché dubbio, perché se aveva bisogno di qualche cosa esistono le udienze conoscitive. E perché non lo fanno? Mi lei scusi. Sa che lo fanno, ma anche a me hanno chiamato in varie occasioni. No, perché non fa, cioè perché hanno fatto questa commissione? Cioè molti in Italia... È sempre in una tecnica dilatoria che... Siccome qui andiamo nel politico, mi attengo piuttosto al giuridico. Qui andiamo in una tecnica dilatoria che è la stessa che, insomma, che non ci fa fare la legge elettorale. Ecco. Esatto. Cioè quando uno pensa in Italia, quando si vuole risolvere un problema, si fa una commissione, pensa che è abbastanza giusto. Ma le ripeto, non penso neanche che sia inutile questa commissione, proprio a cose fatte, dopo aver visto il lavoro, perché tutto sommato si raccolgono tante opinioni e si fanno vedere i difetti, i pregi, la situazione, come si potrebbe un po' modificare uno. Insomma, voglio dire, penso che alla fine non sia neanche inutile, ma certamente... Le ripeto, con le audizioni ci sono, anch'io stessa sono stata sentita varie volte alla Camera, al Senato. Quindi si poteva direttamente fare le audizioni voi saggi al Senato, alla Camera. Qualcuno bastavano due o tre di opinioni naturalmente diverse e si mettevano insieme. Vabbè, è la tecnica dilatoria, ci siamo capiti. Non ci siamo capiti, però sa, gli italiani proprio si interrogano. Per esempio, le vorrei chiedere questo, perché 35 saggi e 7 relatori? Questo è un mistero proprio insondabile. Credo che debbano fare un atto finale, quel che ho capito io, che devono fare un atto finale in cui mettono insieme quello che noi abbiamo detto. Cioè voi parlate e loro scrivono? No, anch'io credevo fosse così e non credo neanche che sia così. Scrivono le segrete, insomma, loro devono trarre, come mettiamola in semplice, sì, trarre il succo di quello che diciamo. E appunto voi discutete, loro lo mettono per iscritto. Loro diciamo, in qualche modo sì, ne traggono delle, insomma, vedono quali sono i punti salienti, sì, per poi fare la relazione finale da consegnare al Parlamento. Molto complicato. È un mistero anche per lei. Cioè lei vede queste 7 persone che sono lì e dice: ma perché ci sono 7 persone? Le vorrei chiedere anche questo. C'è anche un'ulteriore persona che peraltro è il presidente della Corte d'Appello di Bari, Vito Marino Caferra, che è l'uomo di raccordo tra di voi e il Parlamento. L'ha mai visto lei? Se non lo identifico, io non glielo so dire. Ma ne sa uomo di raccordo non sa nulla. Non sa nulla, cioè, perché sa... 35 più 7, ma ci sarebbe anche una persona in più. E appunto è stato dato questo ruolo, l'uomo di raccordo. Non l'ho visto sto raccordo. Si vede che me mi ha saltato. non l'ha coinvolta. Però professoressa Carla Sare, in realtà c'è anche un'altra, credo, collega, Nadia Urbinati, che ha manifestato tra i saggi le stesse perplessità sue. Altri non parlo, ognuno si regola come crede, io non voglio esprimere giudizi di sorta sulle intenzioni altrui. Ma comunque in questo tempo avete prodotto qualcosa, cioè lei può dire beh almeno no, no, senz'altro, per carità, tantissimo, solo che il materiale è esagerato, perché se io dovessi, io personalmente dovessi procedere a una riforma, le cose da riformare sono due: il bicameralismo così come è messo, cioè questo senato pletorico che non si sa bene oggi, è un doppione dell'altro, quindi pensavo il senato come espressione delle dei territori, delle regioni, senato regionale, molto ristretto, e certo questo si può fare, naturalmente anche qui ci sono tante tecniche, tanti modi, si fa nominare dai consiglieri regionali, si fanno partecipare i presidenti delle giunte, oppure come io preferisco lo si fa eleggere dai cittadini della regione, che almeno abbiano la sensazione che... E questa è una delle idee, poi che cosa farebbe? Questa è una, l'altra naturalmente è quella semplicissima, di dire che allora di queste due camere, questa è abbastanza poi diffusa nella commissione, ma è diffusa in tutti, si faceva presto, bastava fermarsi qui, allora che delle due camere solo una è una camera politica in senso stretto, cioè la mozione di fiducia, di sfiducia per far cadere il governo è solo della Camera dei Deputati, il Senato viene espunto da questo compito politico. Questa era un'altra idea semplice che si è sempre sostenuta. Ma perché la politica non lo fa? Lei si è fatta questa domanda? Io me ne faccio tante di domande. Cioè non vede che c'è una sensazione di voler lasciare tutto com'è, oppure che c'è una voglia di fare queste riforme? Non so cosa dirle, non mi vorrei qui. Io le mie impressioni le ho tutte sintetizzate in queste dimissioni. Ecco. L'atto è chiaro, l'atto è chiaro. L'atto è chiaro. No, purtroppo ho capito che per qualcuno non è tanto chiaro. C'era un articolo misteriosissimo, non gentile, e a me non è parso. Forse gentile. Ieri Aldo Grasso si riferisce a quello. Ecco, ieri Aldo Grasso ha detto: non dovrebbe essere fonte di saggezza quella di non scendere nel lagone della politica dando i giudizi. Questa è una sciocchezza assoluta, che i giuristi non debbano dare una mano alla politica, perché il diritto costituzionale specialmente è una tecnica proprio è una tecnica che è essenziale alla strutturazione del potere. Sono sempre stati giuristi chi crede che abbia fatto la Costituente. Quindi è rimasta colpita un po' da questo articolo di Aldo Grasso che ieri no, ha detto... No, da questo articolo di Aldo Grasso, sa perché sono rimasta colpita? Perché? Perché mi pare tanto importante far passare alcuni pensieri, e lui proprio, ho capito che il discorso del costituzionalismo, delle regole, del rispetto tra i poteri, eccetera, proprio non gli sembrava una sciocchezza la ragione per cui io mi sono dimessa. E questo mi è dispiaciuto, non per me, dispiaciuto per questa mancanza... Lei pensi negli Stati, proprio a pensare, noi copiamo sempre gli Stati Uniti in tutto, ma non nelle cose buone. Lei pensi negli Stati Uniti, immagini solo che il Congresso dicesse una parola contro i giudici. Ma lo sa che il presidente, ma io non so, le persone si ricordano poco le cose, è un segno di civiltà assoluta. No, ma certo, io professoressa, nel ringraziarla devo dire, non è neanche stata una questione economica, perché è vero che non prendevate un rimborso, credo, solo un rimborso. No, il rimborso del treno, rimborso trovo del treno. Giusto, sì, perché certo, ci fa un servizio, il servizio si fa e buonasera, io il servizio lo faccio, poi di solito tutto quello che faccio io è gratuito, quindi no, ma è chiaro. Non sono molto comunque, abile a procurarmi delle premesse. In queste dimissioni c'è il senso profondo di quello che lei voleva dire. Insomma, del costituzionalismo, guardi, basta leggere l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, un paese dove non sono garantiti i diritti e dove non è assicurata la divisione dei poteri dello Stato, non ha Costituzione. Io qui, anche se ha un pezzo di carta, non ha Costituzione. Io vorrei qui, che passasse questo pensiero. No, ma questo è il pensiero molto chiaro. La fermo e la ringrazio, professoressa. Devo andare in pubblicità. Grazie per essere stata con noi. Lorenza Carlassare, costituzionalista, docente emerito a Padova, ci ha spiegato il perché delle dimissioni della Commissione dei Saggi, che oggi si riunisce, 34, più 7 scribi, più l'uomo di raccordo, che è un po' un mistero, nessuno l'ha mai visto. Dopo la pubblicità, tra 5 minuti, ci concentriamo su un fatto di cronaca terribile avvenuta a Montalto di Castro nel 2007. Una ragazzina di 15 anni che è stata violentata da 8 coetanei. Questi 8 coetanei, sapete com'è andata a finire? Siccome erano minorenni, sconteranno un anno e mezzo di messa alla prova, cioè servizi sociali. Giorni di carcere, zero. Con noi ci sarà la madre della ragazzina che è stata violentata da questi 8 ragazzi. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:37 minuti, vogliamo parlare di questo fatto di cronaca che risale al 31 marzo del 2007 a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, quando all'epoca 8 ragazzi che allora erano minorenni violentarono una loro coetanea di 15 anni. Questi ragazzi nel frattempo sono diventati maggiorenni, sono stati processati e la condanna che è stata inflitta loro, ora maggiorenni, ma dal Tribunale dei Minori, perché all'epoca dei fatti erano minorenni, è di un anno e mezzo di messa alla prova, cioè servizi sociali. Non sconteranno neanche un giorno di carcere, nonostante la richiesta del pubblico ministero fosse, credo, di 4 anni. Io capisco quando avvengono questi episodi, sempre ci si scatena. Io, se volete, do il numero verde 800 24 00 24, ci si affida anche ai più bassi istinti di dire. Però certo, la domanda che ci vogliamo porre è se sia questa una forma di giustizia. Io lo voglio chiedere alla signora Agata, che è qui con noi e alla quale do il buongiorno. Signora Agata, buongiorno. Buongiorno. Lei è la madre della ragazza che ha subito questa violenza terribile. Lei cosa ha pensato quando il magistrato ha comminato questa pena? Cioè zero carcere ma messa alla prova. Niente, che ho potuto pensare, che non ho più fiducia nella giustizia italiana. La giustizia dice che erano minorenni e bisogna accontentarsi di quello che hanno detto, però sono rimasta delusa al massimo. Delusa al massimo. Io ricordo che questo processo, tra l'altro, ha avuto degli sviluppi anche abbastanza clamorosi. Per esempio, quando sua figlia, dopo credo 15 giorni, raccolse le forze per denunciare questa violenza, ci furono tutta una serie di accuse, purtroppo le accuse classiche che a volte vengono fuori in queste situazioni. Se l'è andata a cercare, era una festa ed era ubriaca, era vestita, portava la minigonna. Che effetto fanno questo tipo di accuse? Che al processo, e le chiedo anche se hanno avuto un ruolo nel processo. No, al processo non hanno avuto nessun ruolo. I giudici hanno creduto e hanno avuto conferma che la ragazza era sincera e tutto, però erano minorenne. E quindi cosa più brutta è che tutti hanno puntato il dito contro questa ragazza, aveva 15 anni, erano le prime feste che usciva, non è un reato portare una minigonna, o se è vero che ha bevuto qualche bicchierino. Questo ci mancherebbe. Tra l'altro, cosa faranno questi ragazzi? Cioè, sono stati condannati alla messa alla prova, cosa dovranno fare in questo anno e mezzo? Guardi, con precisione non lo so che devono essere ai servizi sociali, però con precisione non glielo so dire, perché ancora io non ho letto bene il coso. Il dispositivo. Sì. Le posso chiedere sua figlia come ha reagito? Sua figlia adesso quanti anni ha? 20, 21 anni? 21. 21 anni. Sì. Niente, è delusa, ha pianto tutto il giorno, ieri stava male. Però è stanca, non ce la fa più di combattere, ha rinunciato a tutto, non vuole fare più nemmeno l'appello. E nel paese come si è vissuta questa vicenda? Io ricordo che questa vicenda ha avuto uno sviluppo molto, molto strano, posso usare anche questo aggettivo, signora Agata, perché in passato, per esempio, ricordo che il comune, e chiedo conferma a lei se sia vero oppure meno, ha pagato con credo 40.000 euro, meglio, ha fatto un prestito con la promessa che le famiglie delle persone accusate poi lo avrebbero restituito, questo prestito, cioè ha pagato i legali per il diritto alla difesa di questi 8 ragazzi, è così? Sì. E com'è possibile? E com'è possibile questa cosa, mi scusi? Non lo so, non ho l'idea. Questo in comune l'ha aiutati, non lo so. forse perché in mezzo c'era pure il nipote del sindaco. Cioè, perché ci sta dicendo che una delle persone accusate è nipote del sindaco di quando si decise questo. Sì, sì. Ah, questo è il motivo. Senta un po', signora Agata, quando lei che cosa chiedeva da questo processo? Cioè, vorrebbe vedere questi ragazzi in carcere? Io chiedevo una pena, quella adeguata a una violenza del genere. Una pena di 4 anni? Adeguata. Non lo so se era giusto 4 o di meno, però almeno una pena. No, questi date i servizi sociali. Ma sono a casa, si sono rifatte tutti quanti la loro vita, le loro giornate sono sempre piene. E nessuno ha mai chiesto come sta sta ragazza, che vita sta a fare. Ma sua figlia vive ancora lì, quindi vive nel contesto del paese dove... E quindi immagino che anche quotidianamente incontri queste persone per strada. No, la storia è che i ragazzi sono di Mondalto e noi siamo di Tarquinia. Quindi c'è però, diciamo, siete a distanza, però non c'è la possibilità concreta di incontrarsi quotidianamente. No, quello no. Una cosa che mi ha colpito del processo è stata questa, quando già nel passato era stata data la messa alla prova a una delle persone, cioè alle persone che sono state accusate di questo terribile reato, poi la Cassazione ha revocato durante quel periodo di affidamento ai servizi sociali questa messa alla prova, perché una delle persone, uno dei violentatori, è stato nel frattempo anche denunciato dall'attuale fidanzata per stalking. Sì. Questo è il dato di fatto. Scusi, ma lei da madre, quando vede queste cose, già ci ha detto all'inizio non credo più alla giustizia italiana, ma cosa pensa? Io ho finito di pensare, perché vedo che non c'è giustizia, sono passati 7 anni per fare un processo, una storia così lunga, una ragazzina che ha dovuto affrontare 6 anni di processi, giustamente è stanca, non ce la fa più, cioè io non ho più parole, non penso più a niente, penso solo al bene della mia figlia, spero che col tempo riprenderà di nuovo a vivere. Crede, il processo è vero che a questo punto è estinto, cioè non ci sono più passi, oppure c'è l'appello anche in casa? Alla fine del testamento, se bene, automaticamente si estingue. No, non si è capito niente, me lo deve ripetere, mi perdoni. Sì, alla fine della messa in prova, se tutto va bene, che non è successo più niente, il processo si estingue da solo. Si estingue. Quindi se la messa in prova, che dura un anno e mezzo, funziona in maniera, nel senso che questi ragazzi non compiono regolare. Niente, funziona in maniera regolare, fanno quello che devono fare, fanno i servizi sociali, dopo un anno e mezzo questi ragazzi accusati e condannati per avere in 8 violentato una ragazzina di 15 anni hanno pagato il loro conto con la giustizia, sono persone che assolutamente non hanno più niente da scontare. Così hanno detto i giudici. Eccoci qui, allora sono le 8:47 minuti, come detto stiamo parlando di questo terribile fatto di cronaca del 2007, quando 8 ragazzi, allora 15 anni, violentarono una loro coetanea, e questi 8 ragazzi nel frattempo sono diventati maggiorenni, quindi hanno 21 anni, sono stati condannati però dal tribunale dei minori che li ha giudicati, a un anno e mezzo di servizi sociali. Questa è la pena che devono scontare, un anno e mezzo di messa alla prova. La messa alla prova è un tipico sistema giuridico che vale proprio per i minori, quando gli imputati sono minori di un reato. Certo, il dato di fatto, e quindi stiamo parlando con la signora Agata, che è la madre della ragazzina che ha subito questa violenza, ci troviamo di fronte a 8 persone adulte, ora adulte, e all'epoca dei fatti non adulte, che in un anno e mezzo avranno saldato il loro costo il conto con la giustizia, e tra l'altro un anno e mezzo nel quale appunto dovranno fare servizi sociali, comunque qualcosa di utile, di importante, di meritorio, però ci si chiede se sia giustizia o no. Lo chiedo a lei, signora Agata, se cioè la sento molto sfiduciata e comprensibilmente sfiduciata, cioè questa storia sua personale terribile, vostra storia personale terribile, le ha fatto perdere totalmente, mi pare, il qualsiasi tipo di fiducia nei confronti della giustizia e dello Stato, è così? Sì, è così, perché sempre si è detto, ragazzi, se succede denunciate, ma non è vero, perché dopo che una ragazzina ha avuto il coraggio di denunciarli, ha affrontato tutto, 6 anni di processi e cose, alla fine che ha ottenuto? Non è giustizia, assolutamente. Lei però, tornando indietro, è contenta comunque che sua figlia abbia avuto la forza di denunciare? Sì, sì, sì, io sono stata orgogliosa della mia figlia. Ha avuto un coraggio enorme, da sola, di dimensione, ha affrontato tutto da sola perché aveva paura di dircelo, per tutto, aveva paura, aveva 15 anni. Io la vedevo in quei giorni che era diversa, però non tutto potevo pensare a una cosa del genere. E lei da sola ha affrontato tutto. E poi alla fine, niente. Lei questi ragazzi li ha, immagino, lei ha preso parte ai processi, alle udienze, insomma, ha avuto modo di incrociarli, incrociarne gli sguardi? Sempre, sempre. Ha notato in loro che tipo di sguardi? Cioè ha notato almeno il pentimento per quello che hanno fatto? No, assolutamente. Non so, è inutile che dicono che sto pentiti. No, no, no. Ridevano, scherzavano tra di loro. Mi sorridevano in faccia. Ma dov'è il pentimento? Giusto l'hanno dichiarato che sono pentiti, ma giusto per le loro scuse. Cioè per ottenere diciamo una pena. Bravo. Minore. Per ottenere una pena minore. Io, signora Agata, vorrei sentire anche, ci sono degli ascoltatori ovviamente che hanno chiamato, Pietro da Modena, buongiorno. Buongiorno. Pietro, lei ha ascoltato questa storia, che ne pensa? Sì, guardi, io ne penso tutto il male possibile. In che senso? Mi spiego meglio. Innanzitutto è una questione di educazione che non esiste nell'uomo, e soprattutto a partire da fin da più piccola età. Secondariamente non si rendono conto questi signori, perché dopo spiego il motivo, che hanno praticamente condannato questa ragazzina a una specie di ergastolo. Praticamente questa cosa la segnerà per tutta la vita, per quanto lei cercherà di seppellirla. Beh, ma ci mancherebbe, Pietro, una cosa del genere. Ecco, invece loro dopo un anno e mezzo, sì. Questi signori dopo un anno e mezzo sono già a posto. Bene, loro dovrebbero innanzitutto, visto che ci vuole del tempo per educare le persone, perché va fatta anche i primi 6 anni di vita, nel frattempo, se gli uomini cominciassero a pensare che le donne non sono delle cose da utilizzare, non sono degli oggetti, va bene, e devono sempre avere in mente davanti alla loro faccia che quella donna o quella ragazzina potrebbe essere una loro sorella o una loro madre. No, ma tra l'altro, Pietro, nel ringraziarli, io voglio ricordare, cioè uno di questi ragazzi, come scriveva anche 2 giorni fa Repubblica, all'indomani della sentenza, era già stato affidato ai servizi sociali ed era stata sospesa dalla Cassazione l'affidamento ai servizi sociali perché nel frattempo è stato denunciato per stalking dalla sua attuale fidanzata. Cioè, per carità, ma io è un dato di cronaca, non è che voglio giudicare, non so, la denuncia per stalking, però il contesto mi sembra molto molto strano. Vorrei sentire anche Michele da Monza. Buongiorno Michele. Sì, salve. Quello che mi sconcerta è, mi faccio una domanda, io non entro in merito al giudizio dei giudici che hanno dato sulla vicenda, non è la mia competenza, loro rappresentano la giustizia, ma il cittadino normale che cosa deduce da questa sentenza? Qual è la lezione che loro ci impartiscono? Che fare determinati reati rovinando la vita delle persone non ha nessuna conseguenza? No, cioè, credo no. Siamo Michele, tutti deresponsabilizzati? No, questo assolutamente no. Cioè, se lei non deve pensare che tra l'altro le sentenze debbano in qualche modo dare un insegnamento. Però certo, posso capire la sua domanda, che è la domanda che tutti si pongono, e la signora Agata penso che se la ponga in maniera molto più forte di noi. Cioè, Agata, vede che si parte sempre da lì, cioè gli ascoltatori si chiedono, ma noi di fronte a una cosa raccontata ovviamente in mezz'ora, per quanto può dare lo spunto, non abbiamo seguito il processo, ma i dati di fatto sono questi, che insegnamento possiamo trarre, cioè cosa possiamo capire da una vicenda del genere che pare davvero dai contorni assurdi, signora Agata? Niente, non si può capire niente da una cosa del genere. Rientra un po' una questione quasi da teatro dell'assurdo, effettivamente. Purtroppo invece è tutta una cosa molto concreta. Così, sentenze, queste cose, si torna ai tempi di una volta, che le ragazze non potevano uscire, l'uomo è il Dio su tutto. La cosa che le ha fatto più male sono effettivamente anche quelle accuse di dire se l'è andata a cercare, formulate. Sì. Ma chi si è andata a cercare? La ragazzina che era brava a scuola, studiava e tutto, ed è stata invitata a un compleanno e c'è andata. Ma chi andava a cercare? Per carità, io non ti so di che la mia figlia quella sera, non lo so poi. Ma no, ma non è che deve giustificare il fatto che sua figlia magari quella sera ha bevuto un bicchiere, perché alle feste succede, voglio dire. A 15 anni l'abbiamo avuto tutti. Ma è assolutamente così. Fatemi sentire anche Pier Giorgio da Roma. Pier Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Guardi, io sono una persona anziana. Però di fronte a questi fatti che succedono in Italia in questo momento, io penso che quelli che ancora hanno fiducia nella giustizia italiana sono delle persone ingenue, perché di fronte a cose così eclatanti e così manifeste come questa, non è possibile che un giudice possa dare una sentenza di questo tipo. Questo è un insulto, prima di tutto alla ragazza e alla sua famiglia e poi a tutta l'Italia. Avere un giudice che fa una cosa di questo genere è un insulto. Io per Giorgio, con questo suo anche sfogo capibile, mi devo fermare. Ricordo che era il Tribunale dei minori, quindi la giustizia minorile segue dei percorsi diversi rispetto alla giustizia normale. Il PM aveva chiesto 4 anni di carcere, la condanna è stata invece a 1 anno e mezzo di cosiddetta messa alla prova. Signora Agata, io devo finire qui, intanto la ringrazio, però seguiremo questa vicenda se avrà degli sviluppi che non siano o che possano essere quelli, come ha detto lei, dell'estinzione del processo, nel senso che se appunto stanno 1 anno e mezzo tranquilli con la loro messa alla prova, la vicenda per loro giudiziariamente è conclusa. La ringrazio per essere stata con noi, io ricordo a tutti che si può riascoltare su radio24.it. E con Alessandro Longoni e con Anita Panizza vi diamo appuntamento a quando? Insieme a Carmelo Lauricella in regia. Domani alle 6.30. A domani. QOA Lean Society Forum, 19-20 novembre. Info leancenter.it. Vi ha presentato "24 mattino".